non mi sono mai fermato, questo è quello che ho imparato lungo tutto il mio tracciato. Il passato l'ho eliminato e non ci ho pensato più, prendo il volo su sto crew. 1-2-1-2, blackout è la crew, che volete di più? This is name of the crew, on the microphone check. Quando rap e faccio rap, sono fuori uguale a Crash. Se ci infila anche gli scratch, sono veloce come Flash. Sopra i quattro quarti, tra casse rullanti, scrivo senza rimpianti e mi porto sempre più avanti. Perché mi sento vivo quando rimo con un flow esplosivo, corrosivo, distruttivo. Tutta quanta la città fra, esplodono i lampioni e vedi zombie su sta track, comparsi dall'aldilà, resuscitati dalle tenebre. La mia merda non diventa cenere, il mio suono scrocchia vertebre e non si può mai spegnere. Spingi, lascia parlare i fatti. Spingi, spingi, con gli occhi crepati noi siamo i fatti. Fatti scoppiati, fatti, ma fatti soldati. Da quando ho cominciato ho spinto sempre più di tanti, dai banchi di scuola ai più marcipianti. Irritazione da fumo e gola coi crampi, ai salti mortali per salire sui palchi. E sto rap esco pazzo e mi incazzo se non a seguito. Evito, col cazzo lo caccio per niente inedito. Mi reputo in debito con mie riga, dai mali di mala figa, mala vita. Ogni rima è per i fra. Ho cominciato, ho iniziato a atteggiarmi a gangsta, le prime botte in testa e ho fatto mille cazzate. Quando ho cominciato vestivo largo bestia, si alzava la cresta e le facce sempre incazzate. Da quando ho cominciato non mi sono mai fermato, questo è quello che ho imparato lungo tutto il mio tracciato. Il passato ha martellato e non l'ho scordato più, prendo il volo su sto groove. 1-2-1-2. E allora tutti giù, e che volete di più? Sono senza una crew, on the microphone check. Quando rap faccio rap, sono fuori senza cash. Occhi a spillo alla ten ten, con i giga e con Morsen. Spingi, spingi, sto flow non lo restringi, alle nostre laringi, fino alle tue meningi. Spingi, noi abbiamo già cominciato, tu mi poi improvvisato fingi. Troppo vuoi e nulla stringi. Spingi, spingi, sto flow non lo restringi, dalle nostre laringi, fino alle tue meningi. Attingi dai miei pezzi, vuoi far rap ma non ti raccapezzi, che hai la rima fiacca in doppia H, smetti se da C. Da quando ho cominciato ero senza fiato, ma non ho cianciato, dato che ogni mio enunciato pronunciato ti ho linciato. Mo che sono lanciato e ho abbassato le tue creste, rinunciato, mo che ti ho conciato per le feste. Teste di cazzo, vi conto su sto groove. 1-2, due babbi, vi smonto su YouTube. Zenarcore, la mia crew, vuoi di più? Stai sicuro? Ho Pro Tool, ho il tape cool, oh, mentre tu fai un culo. Accumulo la furia, esperti si richiede, noi concerti in Liguria, ma a voi non vi si vede, a voi non vi si crede. Giga flow, non lo succa e riga bro, o Dottor Snork vi usa come dare buca. Spingi, spingi, sto flow non lo restringi, alle nostre laringi, fino alle tue meningi. Spingi, noi abbiamo già cominciato, tu mi vuoi improvvisato fingi. Troppo vuoi e nulla stringi. Spingi, spingi, sto flow non lo restringi, dalle nostre laringi, fino alle tue meningi. Attingi dai miei pezzi, vuoi far rap ma non ti raccapezzi, che hai la rima fiacca in doppia H, smetti se da C. Da quando ho cominciato saldo al beat incappucciato, non aspetto il saldo alla boutique per girare incamiciato. Musica è la droga, fai come cazzo vuoi tu, micro in mano, palco freestyle. 1-2-1-2, come una Toyota Aygo, nell'impianto hai mixtape culo con i giga flow bro. Senti quello che ti dico, off con oro sopra micro, se ogni barra sudo chiudo ma avrò mai finito. E rispetto infinito per chi se ne capacita, capacita se la mano scrive ci dà da gelare. Siamo caldi contanti, per fermarci ci devi gelare come soldi contanti. Spingi, spingi, sto flow non lo restringi, dalle nostre laringi fino alle tue meningi. Attingi dai miei pezzi, vuoi far rap ma non ti raccapezzi, che hai la rima fiacca in doppia H, smetti se da cingi. Giga flow, oro, off, on the microphone check. Spingi, spingi, se nel core 2008. 1-2-1-2, ci siete o no bastardi? Giga flow nel posto, per Genova, Lavagna, Recco, ci siamo, spingiamo, rappresentiamo, sempre in volo su sto crew. Per Bino,